Canale di K. Positivo. E aia, va bene fra, che sto facendo cosa, ciao. Ciao Gabi, buonasera, dai, ce la riascoltare i prossimi, vai. Hola, attenzione al canale 10. Chi è là, chi è là? Oh! Eia! Con che apparecchio stai uscendo? Ho terminato per io! Che proprio che fossi? Cosa ci hai messo di microfono? Cioè, sempre con l'accoppiamento, il classico accoppiamento. Cioè. Sempre col classico. Gabba gabba! Cola! Vai, vai, bacio! Un attimo, io volevo aprire un telefono, un attimo solo, va! Eia, mi ritolgo la roba perché c'è troppo cazzo. Ehi, aspetta un attimo già, 2 secondi, dammi 5 minuti, arrivo. Hola? Questo qui va meglio. 1, 2, 3, 4. Questo rimane più chiara già. Ascolti, il doppio rombo cambio. Più chiara è già. Questa più chiara. Ehi, aspetta, devo fare una telefonata un attimo. Ehi, poi ti chiamo io che ti devo dire una cosa. Cava cava. Più chiara questa qui, anche forte come radio. Ehi, aspetta, fa una chiamata già, sì, va bene. Qual è la chiamata della persona, conosco chi sia, rispondi. Ehi, avanti, va. Se vuole entrare qualcuno, avanti, avanti. Attenzione, attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza lì della Charvet che fa pelle. Questo è l'F100, quello della Midland che ho comprato. Oi. E cosa ti fa male? Cosa? C'è il checco. Ma chi sei, Gio Maria? No. Attenzione, abbasso così, va bene, normale. Così è normale, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione sul canale di K. Hola, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Hola, prova. Ma non lo sai dire, sono Alessio Pomponi, o cazzo, ti costa molto a dirlo. Non ti avevo riconosciuto con questo microfono, che vai? Gianni, ci sei? Gianni, ci sei? Sì, sono in radio. Adesso lo attacco, aspetta. Ehi. Gianni. Venga. Ci sei? Qua sono. Mi faccio ricevere il basso, questa parecchia, come vai? Cosa? Ah no, fammi arrivi. Ho trovato lo Smith sicuramente. Senti così di superstare. Quello lì ce l'hanno di difetto, da quando lo compri così. Parla un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parla ancora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda che non ci sia chiuso anche le restrizioni. No, no, a posto, dai. Hola. Ah, perfetto, dai. Hanno conosco. Vabbè, vabbè, vabbè. Okay. Ok, ok. Non parliamo. Scappa. Però mi è più bello perché c'ha la padina blu. Se ne vuoi fare due, se aveva uno. Che beh, dai, fammelo smontare. Smonta, smonta, smonta. Vabbè, lui, se non ti vuoi trattenere perché c'è il caldo, io me ne vado a cantare. Guarda un po'. E io. Questo non mio, eh. Questo c'è il microfono più ficcato, è un grillo. Vabbè. Ci metto di nuovo. Questa cosa qua. Con il processo, non so quanto. E io va bene, dai. Già sono carini. Poi sono buoni come apparecchi, hanno. Andati bene. Perfetti. Sono perfetti. E io guardo i bussi. Aspetta, così. Così. Ecco qua. Ecco. Siamo qui. Siamo mai. La busta così. Come si dice? E adesso mi apro, c'ho fame. Io non sto mangiando nulla, solo frutta, anguria, queste robe qua. E vabbè, quel problema come? Tutta roba fresca, mi credo. Insalate, con le uova sode, queste cose qua. Ah, vabbè. Sì, che va bene, tanto col caldo non devi mangiare pesante, lo dico anche di tutti. Ho fatto pasta con gamberetti e zucchine. Fa pagare, pagare. E pasta fredda vanno bene. Vabbè, certo. Ma io posso aver eliminato la pasta, quindi no. Adesso me devo smontare il Galaxy perché c'ha l'attacco del microfono che sta ballando. Ah, dai, poi devo mangiare la dea io. Vabbè, dai, dai, dai. Dai, ci sentiamo che me ne vado un po' a cantare io. Sino alle 7, sino alle 8, tanto e poi vado giù. Ma si lo carico l'applicazione e ti vedo cantare. No, lo so, devi entrare, perché io sono in una stanza particolare, capito? Sono nella stabile. Ah, sì, ok, vabbè, ci sentiamo già. Gabba gabba, dai Lu, ci sentiamo, tanto nessuno ha voglia di rispondere, però le chiedendo chi era a casa e la Alice non rispondeva, però alla fine l'ho riconosciuto. Via, vabbè. Due parole, la risposta. Dove i muti per inviare? Sì, ma è a brutto colpo perché questo è il canale 10, c'è qualcuno qua? Hola. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Chucuchu, chucuchu, chucuchu, chucuchu. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. 1, 3, 4, 5, 6, prova. Hola, hola, hola, hola, prova. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, prova. 1, 3, 4, 5, 6, prova. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Chucuchu, chucuchu. Hola, hola. Hola, hola, hola, prova. Hola, hola, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Hola, hola, hola, hola. Hola. A posto. Chucuchu, chucuchu, chucuchu. Tutto a posto. Ok, ahí siamo. Eccola qua. Quindi a questo punto tutto a posto. E ripeti, siamo in 27.75, chiama, fai chiamata, non c'è problema. Ok, forza, fai chiamata, non c'è problema, ti facevo il ripetitore. Va bene, quindi canale 10 non c'è problema, ha fatto tema, non c'è problema, adesso riceverà la risposta, non c'è, non problema. Amico, mi ascolti? Ah, tutto a posto, sì, ok. Cosa vuoi che ti dica io? A un certo punto parli a metà, quindi a un certo punto siccome c'è una specie di ripetizione strana, ma comunque sia, non c'è problema. Tu chiama, io sono qua. Ci sei? Ci sei, sì. Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, proprio veramente vergogna. 3, 4, 5, 6, prova. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, prova. 3, 4, 5, 6, prova. Ok, tutto a posto. Ola, ola, ola, ola. Ola, ola, 3, 4, 5, 6, prova. Ola, ola, ola, prova.